24 mattino. Eccoci qua alle 8 e 18 minuti, è il momento dell'economia. Soldi e dintorni. Con Deborah Rosciani, ben sì. ritrovata. Grazie, eccoci qua. Buongiorno a tutti. Passiamo... Cos'era quella cosa delle discariche che dicevi? No, era riferito brutalmente a noi due. Passiamo minuti e minuti prima di entrare in onda a parlare dei relativi acciacchi malani, fisici. Mamma mia, veramente. Come se fossimo insomma, due novantenni, sì, guarda. Anche, ma ce ne sono dei novantenni che sanno molto meglio di noi, guarda, diciamolo anche chiaramente. Allora, parliamo di TV, nel senso il digitale terrestre. Una cosa che mi incuriosisce molto perché si legge tantissimo di questo tema sui giornali, è un tema anche un po' tecnico, però che a me riguarda... non se ne capisce poco, insomma non è facile sì, capire. Sì, però è una questione questa transizione dalla TV analogica a quella digitale terrestre che coinvolgerà almeno 20 milioni di abitazioni nel nostro paese, anzi sta coinvolgendo, e 50 milioni di apparecchi televisivi. Ed è una transizione che dovrà essere completata, come previsto da una legge del Parlamento italiano, entro il 2012. Faccio un esempio. Nella notte fra martedì 19 e mercoledì 20 maggio, quindi questa settimana, tra le 2 e le 3 di notte, in Piemonte, come già successo in Trentino in febbraio, si è spento il segnale analogico di Rai 2 e Rete 4, che ora sono ricevibili solo in digitale. Quindi qui c'è stata una transizione parziale, mentre in Val d'Aosta, in Sardegna, c'è stato lo switch off, si chiama tecnicamente così, e cioè lo spegnimento completo del segnale analogico di tutti i canali con il passaggio al digitale. Via via questa trasformazione riguarderà tutte le regioni italiane. Perché parliamo di questo argomento? Perché dobbiamo cercare di capire se i nostri televisori in casa sono adeguati alla ricezione del nuovo segnale o se dobbiamo invece cambiare televisore, videoregistratore. Allora ci spiega qualcosa Salvatore Paparelli, vicepresidente dell'Anitec, che è l'Associazione Nazionale Industrie Informatica, Telecomunicazioni ed Elettronica di Consumo. Paparelli, benvenuto a Soldi e Dintorni. Grazie, buongiorno. Allora, andiamo subito alla prima informazione pratica. Queste persone che per esempio vivono in Piemonte, in Trentino, che quindi hanno già avuto un primo cambiamento, perché dicevamo si è spento il segnale analogico di Rai 2 e Rete 4, ricevono comunque ancora questi canali o hanno dovuto cambiare televisore? Bene, diciamo che l'attività di switch off e switch over che è già iniziata con la Sardegna, si protrarrà, come giustamente diceva lei, fino al 2012, a un momento in cui la trasmissione analogica viene definitivamente spenta, e quindi in quel momento chi non ha acquistato un televisore con un tuner digitale già integrato, così come di fatto l'industria già dal 3 ottobre 2008 non ha più potuto mettere in commercio, non ha ovviamente nessun problema di ricezione perché vede tutti i canali televisivi trasmessi in digitale, e tutti coloro che invece hanno acquistato un ricevitore digitale terrestre in un periodo qualsiasi prima dello switch off possono naturalmente ricevere tutti i canali in digitale. Il problema è per chi ha le tecnologie, come dire, più vecchie, obsolete, chiamiamole così, però insomma credo che questo riguardi gran parte della popolazione italiana. Riguarda gran parte della popolazione italiana che comunque diciamo che dal 2008 non ha più trovato da parte dell'industria la messa in commercio di prodotti non adatti. Quindi anche da parte della distribuzione c'è stata una grande campagna di sensibilizzazione e informazione, gli stessi broadcaster hanno informato continuamente i consumatori del cambiamento che sta avvenendo in Italia, cambiamento che poi è già avvenuto in tanti altri paesi europei, che ha permesso quindi di passare in modo indolore ad una fase tecnologica che ci permette di avere una qualità delle nostre ricezioni televisive molto più alte. Quindi la possibilità che qualcuno non abbia ricevuto l'informazione del cambiamento in atto o non abbia ancora acquistato un televisore digitale di fatto esiste. Beh, ecco, allora ammettendo appunto di avere un televisore vecchio tipo, come posso fare appunto per ricevere i vecchi canali? Ma poi la questione riguarda forse fondamentalmente più i vecchi videoregistratori, perché in realtà, dottor Paparelli, ci risulta che sono ancora venduti da parte di qualche rivenditore che magari vuole liberarsi di qualche scorta di magazzino e forse non proprio correttamente fa il suo lavoro, comunque tenta di piazzare questa vecchia strumentazione. Beh, diciamo che la possibilità che tra il 3 ottobre 2008 ed oggi sul mercato sia rimasto qualche prodotto inteso come televisore, che la legge definisce anche chiaramente cosa si intende per televisore, senza il tunnel analogico non è esclusa, non è esclusa. Sicuramente si tratta di veramente di pochi casi e veramente di poco conto, e dubito che i rivenditori che nella loro area di fatto conoscono il bacino d'utenza vendano senza informare un prodotto analogico, anche perché esiste, se vogliamo, tutta una serie di prodotti, come giustamente lei menzionava poco fa, come i videoregistratori a cassette VHS, che ancora sono venduti perché chi ha le cassette con le proprie registrazioni vuole utilizzarle, esatto, che non hanno l'obbligo del... Esatto, infatti, perché c'è la norma che praticamente non vieta la vendita di questi videoregistratori privi di sintonizzatore digitale, se non sbaglio. Esattamente, ecco. No, infatti non sono contemplati né i videoregistratori VHS né tantomeno i DVD. Prodotti che possono tranquillamente riprodurre il segnale televisivo delle cassette o dei DVD su un qualsiasi televisore, compreso quelli analogici naturalmente, e che non necessitano di un tunnel digitale, ma che comunque di fatto con un decoder esterno, il cui prezzo è veramente, veramente basso sul mercato, possono di fatto ricevere ancora il segnale digitale. Quindi insomma si possono convertire i vecchi strumenti, i vecchi televisori, i vecchi videoregistratori anche alla nuova tecnologia. Le faccio un'ultima domanda, poi la Prego. Devo salutare, dottor Paparelli. Come faccio a sapere se la mia zona è coperta dal servizio di televisione digitale? Sui siti internet sia dei broadcaster che del Ministero esistono delle tabelle di switch off nel periodo che andrà, come giustamente avete menzionato poco fa, fino al 2012, quindi è possibile scoprirlo. Ahimè, lo si può scoprire anche non vedendo il segnale, questo, quando verrà lo switch off ed è quel problema lì ci deve generare qualche dubbio che forse qualcosa sta cambiando. Io volevo anche ricordare un numero verde, l'800 022 000, che è stato messo a disposizione dal Ministero dello Sviluppo Economico e che offre tutte le informazioni necessarie sul passaggio al digitale, completamente gratuito, attivo dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 20. Paparelli, grazie per essere stato con noi, buona giornata. Grazie. Buongiorno. Arrivederci, a risentirci. Alessandro. E allora, dopo... Mi torni con il pizzetto un po' più... impegnativo. Mi torni dalle perché vacanze. Vuol dire che vado in vacanza. Sì, lo so, questa cosa non riesce a digerirla. Io settimana prossima sono in vacanza, fattene una ragione. E allora oggi, guarda, per dispetto parlo di prestiti a Salvadanaio, così impari. Prestiti più costosi d'Europa, secondo Tremonti, lo verificheremo. 24 mattino. Alle 8.32 minuti, ben ritrovati da Alessandro Milan. Diamo uno sguardo alle notizie in primo piano. Riforme subito per combattere la crisi, è la richiesta fatta dal presidente di Confindustria Emma Marcegaglia al governo. Poi un invito alle banche, sostengano le imprese. E all'assemblea di Confindustria il premier Berlusconi fa un doppio attacco ai giudici definiti estremisti quando ha ribadito che la sentenza sul caso Mills è scandalosa. Poi al Parlamento, giudicato pletorico. Basterebbero 100 deputati, ha detto Berlusconi. Il governo tedesco si riunisce oggi per discutere i piani presentati per l'acquisizione della Opel, tra questi il piano Fiat. L'amministratore delegato del Lingotto, Marchionne, dice al giornale tedesco Der Spiegel: nessuna fabbrica Opel in Germania verrà chiusa. Bisogna chiudere invece Guantanamo, questo ribadisce il presidente americano Obama, che definisce il carcere un pasticcio legale che ha indebolito la sicurezza americana. Poi Obama avverte: Al-Qaeda vuole colpirci ancora. Infine il calcio, resto all'Inter al 99,99%, parola di Mourinho tentato dal Real Madrid. Ma acquisto bene, dice il portoghese, anche se chi allenerà il Real è fortunato. Infine, al Giro d'Italia, nuova maglia rosa, è il russo Menchov che ha vinto ieri la cronometro. Di Luca ora insegue a 34 secondi, oggi tappa per i velocisti con arrivo a Firenze. Tutto questo alle 8.33 minuti, 349-238-6666 per i vostri messaggi. Allora, l'ambizione è quella di fare di Milano, dei parchi pubblici di Milano, delle zone dove non si possa fumare. Ci sono già dei limiti in varie città. L'assessore alla salute del comune di Milano, Giampaolo Landi di Chiaven, io leggevo dal Corriere due giorni fa col principio, diciamolo così, li chiamano polmoni verdi e allora che siano dei veri polmoni dove si può respirare. Assessore, buongiorno. Grazie, buongiorno a voi. Allora, lei vuole vietare, insomma la proposta è questa, vuole limitare, togliere le sigarette dai parchi pubblici oppure vuole andarci per gradi, diciamo? Guarda, la mia proposta è un po' più articolata. vincolata, l'ambizione sarebbe quella che lei ha peraltro già annunciato nella sua introduzione, quella di fare di questi parchi di Milano un'oasi di benessere in senso generale complessivo, quindi introdurre un po' quella mentalità già presente in molte realtà anche europee, dove il parco viene vissuto per tutta un'attività di wellness, di ristorazione ad alto contenuto salutistico, quindi menù di lunga vita, dove c'è anche la possibilità di confrontarsi con musiche sinfoniche, classiche o jazz, insomma far vivere questi parchi in una città fortemente frenetica, dove c'è bisogno di un momento di riflessione, di relax, il parco può diventare un vero polmone di vita e quindi un'area di vita utile per l'individuo. Dentro questo ragionamento ci sta evidentemente il divieto del fumo, gli effetti negativi del fumo lo conoscono tutti, io mi occupo di prevenzione di salute e quindi credo che sia opportuno e doveroso insistere sulla politica di informazione sui danni che sono correlati evidentemente al fumo. Se i parchi diventano dei punti di grande riferimento culturale, sociale, di aggregazione, di vita, di benessere, il fumo evidentemente deve esservi bandito. Addirittura bandito. Lei sa che lei è un fumatore, tra l'altro, mi risulta. No? Esattamente sì. Sì, lei fuma. Sono un fumatore cosciente del danno che faccio a me stesso e agli altri. Ma per carità, ma infatti questo, guardi, la legge considerata più amata dagli italiani, più amata, quella che ha avuto il più alto indice di gradimento, è stata la famosa legge Sirchia. Sirchia, che devo dire, mi pare da dichiarazioni, però è stato un po' critico nei suoi confronti, dice non esageriamo, addirittura Sirchia non vuole questa cosa, o meno, è stato un po' critico, assessore. Sì, io sono rimasto francamente piuttosto stupito, perché mi sarei aspettato critiche legittime da parte di molti, ma certamente non di Sirchia, anche perché il fatto che Sirchia abbia fatto, come lei giustamente ricordato, una stupenda legge importante che oggi è assimilata, diciamo, nella cultura, della civiltà, della società anche italiana. Oggi andare al ristorante e pensare di fumare è un'aberrazione, ed è giusto che così sia, che così fosse. E il fatto che Sirchia abbia richiamato come priorità quella di raccogliere i mozziconi nei portacenere mi sembra errato da due punti di vista. Il primo, perché evidentemente io sono un assessore alla salute, non ai portacenere alla raccolta dei mozziconi. Secondo, perché comunque il fatto di raccogliere i mozziconi è certamente qualcosa di utile, perché è maleducazione civica, ma presuppone il fatto che uno abbia già fumato e poi maleducatamente abbia buttato per terra il mozzicone. Io ho un altro compito, dovere e interesse, quello di far capire e convincere la gente che il fumo fa male, quindi aggredire a monte il problema. Senta, le chiedo, ma i fumatori oggi, per esempio, leggevo su Il Giorno, insomma Il Giorno ha un'ampia pagina di cronaca locale di Milano, a dire ma insomma sono più, ormai sembrano più i divieti, che si fa prima a dire quello che si può fare, qualcuno dice, a Milano, piuttosto che quello che non si può fare se dovesse passare questa norma. Cioè non è un po', insomma, discriminatorio? Certo, il fumatore deve essere educato, gentile, sapere che se c'è un bambino a 2 metri magari non si fuma, no? Una donna incinta magari non si fuma, però dopodiché vietare addirittura all'aria pubblica, all'aria aperta, in un parco, di poter fumare, insomma, rischia di diventare un po' vessatoria come regola. Dunque, guardi, in linea di principio io poi provengo da scuola di area liberale, quindi sono obiettivamente molto d'accordo sull'obiezione, nel senso che non è possibile sempre andare avanti con le politiche del divieto, ma bisogna fare politiche di convincimento. Ed è per quello che il mio ragionamento va oltre il semplice divieto di fumo. Io vorrei offrire un progetto articolato per diventare questi parchi, come dicevo prima, dei polmoni di vita, e allora evidentemente offrendo delle utilità eccezionali che potrebbero venire inserite, installate in questi parchi, ci sta evidentemente anche il ragionamento del divieto del fumo. Vietare tout court è comunque, a mio avviso, utile, poi magari può essere, come dice giustamente il sindaco della città di Milano, circoscritto in via sperimentale alle aree più sensibili, cioè parchi, giardini dove ci sono mamme e magari anche partorienti. Però direi che deve valere il principio. Guardi, secondo me, poi non voglio essere tacciato di essere il maestro delle formiche, ma È fondamentale insistere sulle politiche di informazione. Questo vale per il fumo, i danni correlati al fumo, vale per le malattie a trasmissione sessuale, vale per molti altri aspetti correlati alla cultura della prevenzione. C'è un atteggiamento di forte interesse da parte del popolo italiano sulle politiche di prevenzione, stili vita, screening. Dobbiamo lavorare su questo processo di crescita culturale del nostro paese. Allora, assessore, stia con noi, perché ci sono città dove già viene fatto: Napoli, Verona, Bolzano, Buccinasco, leggevo anche che è un comune della cintura del milanese. Voglio salutare il comandante della Polizia Municipale di Verona, Luigi Altamura. Comandante, buongiorno. Sì, buongiorno. Buongiorno, credo che sia dal 2007 il divieto, novembre 2007, il divieto di fumare sempre lì, soprattutto vicino ai bambini, aree giochi, eccetera. Ci sono anche delle sanzioni, ovviamente. Come va dal 2007 a oggi? Quante sanzioni avete fatto? Beh, allora, dal novembre 2007 ad oggi abbiamo fatto una sola sanzione, però il divieto è molto... Tutti bravi, a Verona bravissimi, nessuno, diciamo, che c'è. Io ascoltavo l'assessore che parlava poc'anzi, c'è un discorso di rispetto, di momento di aggregazione, c'è un discorso di rispetto verso i bambini. A Verona abbiamo diversi parchi giochi, l'amministrazione comunale li ha completamente ristrutturati, recintati, e in quelle aree è tassativamente vietato. Il problema, secondo me, è un fatto di sicuramente di prevenzione, ma anche poi di far rispettare le regole, perché noi possiamo fare le migliori ordinanze di questo mondo, ma se non vengono poi fatti i controlli, e allora noi lì utilizziamo il vigile di quartiere, coadiuvato anche dagli assistenti civici che sono presenti in moltissime aree verdi. Per cui il rispetto va attaccato poi anche alla prevenzione. A Napoli, credo, questo abbiamo letto, c'è anche lì il divieto, zero multe. Questo, assessore, sarà eventualmente un problema, nel senso che dovesse passare questo divieto ci saranno anche ovviamente delle sanzioni. Poi chi va a controllare? Insomma, lei se la vede elevare una contravvenzione per fumo in un parco pubblico? Guardi, se mai dovesse passare così il progetto più semplice dell'ordinanza, chiaramente le ordinanze dovrebbero essere rispettate e noi abbiamo già delle guardie ecologiche e come ci ricordava il comandante dei Vigili di Verona, possiamo obiettivamente anche noi ricorrere a un volontariato, a degli ausiliari, così come è stato fatto per il traffico a Milano, gli ausiliari che comunque hanno diritto di elevare contravvenzioni, ora possiamo tranquillamente ricorrere anche e quindi mutuare questa esperienza anche per i parchi. Il concetto della dissuasione non deve essere quello di fare cassa e quindi sanzionare, eccetera, è quello di dissuadere. Quindi io lavorerei molto anche sul concetto della deterrenza di carattere psicologico, sapere che puoi essere contravvenuto se fumi in un'area sensibile dovrebbe spingere la persona a evitare di correre questo rischio. Ma guardi, io anche per tornare un attimo sulla questione della legge Sirchia, ho trovato assolutamente giusto, cioè gli italiani in quel caso hanno capito solo quello, cioè dal giorno tot non si può più fumare. Mi ricordo le polemiche, ma erano polemiche soprattutto dei fumatori che erano stati abituati troppo bene, diciamo la verità, per anni ad abusare della libertà, questo sicuramente. Però, assessore, lei sinceramente, il sindaco Moratti appunto ha detto ma si può iniziare magari per gradini, no? Limitiamo dove c'è. Ecco, perché si parla di giunta divisa, insomma, di forse un'azione un po' troppo, si è spinto un po' troppo in là, insomma, magari con un idealismo bello dire i parchi sia assolutamente bandito il fumo, però insomma sinceramente crede che abbia le gambe corte la sua proposta o possa davvero fare breccia? Quello che è a volte obiettivamente un po' fastidioso dal punto di vista anche politico è che, partendo dal sottoscritto, probabilmente si commentino progetti di altri colleghi senza averne conosciuto evidentemente tutti i confini, contorno, l'aspetto profondo del progetto che ha lo studio presso gli uffici dell'assessorato. Io non so se la giunta sarà spaccata o meno, io so che dovrò e vorrò portare all'attenzione prima del sindaco e poi della giunta un progetto che spero sia un progetto organico e articolato e condiviso dagli altri assessori della partita. Se dovesse essere limitato a una semplice ordinanza, ovviamente ne discuterò prima con il sindaco, perché il mio intendimento non è quello di spaccare la giunta, ma è quello di produrre portare avanti insomma questo dei risultati per la città di Milano. Altri provvedimenti non sempre sono anche da me condivisi, ma io aspetto di capirne le motivazioni e le finalità, e poi se mi convinco le voto, diversamente cerco di astenermi. Insomma, la sentiamo molto convinta, vado avanti per questa strada. Comandante Altamura, visto che dobbiamo chiudere, ma quella persona insomma quando fu elevata quella contravvenzione, immagino all'inizio, no? Quando... è stata effettuata nella primavera del 2008, ma la cosa a cui tenevo far sapere anche agli ascoltatori è che noi spessissimo veniamo chiamati da mamme che pretendono il rispetto dell'ordinanza, e soprattutto, e qui lo dico l'assessore, molte aree sono tornate a essere vissute in maniera ottimale, con manifestazioni, con momenti di aggregazione, grazie anche al fatto che vengono maggiormente controllate. Per cui diciamo che l'ordinanza è stata anche lo spunto per poter far rivivere delle aree che in qualche caso potevano essere degradate, per cui non c'è solo l'aspetto repressivo, c'è il fatto che comunque una divisa o il fatto di avere delle persone che vigilano su un bene che è quello a cui tengono maggiormente le mamme, i bambini, ma gli anziani, pensiamo adesso in questo momento in cui sta arrivando il caldo, quante persone vanno nei parchi per il fresco, ecco, per cui tutte queste cose sono nate da una semplice ordinanza che, ripeto, deve essere poi fatta rispettare, altrimenti non ha valenza. Questo sicuramente. Ringrazio il comandante della Polizia Municipale di Verona, Luigi Altamura, e l'assessore alla salute del Comune di Milano, Giampaolo Landi di Chiavenna. Grazie per questa insomma proposta. Vedremo appunto se farà breccia, se andrà avanti e come andrà avanti. 24 mattino. Allora, 8:48 minuti. Morterone, in provincia di Lecco, splendido paese peraltro, 1100 metri in Val Sassina. 36 abitanti, spero di citare i numeri giusti, ma qui adesso chiederemo conferma. 36 abitanti, 32 aventi diritto al voto, 33 candidati al sindaco, appartenenti a tre liste. Accidenti, che competizione incredibile. Saluto Gian Pietro Redaelli, buongiorno. Buongiorno. Lei è il sindaco attuale in carica, certo. Cioè che si ripresenta ovviamente. Si ripresenta dall'85, Ho già fatto il sindaco per 4 mandati e uno da vice. Ah, e come ha fatto a eludere il limite di 2? Ho sospeso uno. Ah, sospeso, Io bella forza. Ho fatto 4 sindaco e uno vice sindaco. Senta, i numeri sono questi, 32 aventi diritto al voto, 33 candidati, 3 liste, questo è sicuro, 3 candidati questo sindaco. È sicuro. Ce n'è anche un altro qua, quindi attenzione, stia attento, perché c'è anche un altro candidato sindaco tra poco che presenterò. Ma com'è possibile? Che è una gara da pazzi? Una gara da pazzi. Diciamo così che le due liste sono una cosa normalissima, perché è sempre stato così a Morterone, anche se nel passato, non nell'ultimo passato, le due liste poi si mettevano assieme, lavoravano assieme, perché giustamente una realtà così piccola ha bisogno di unione. La terza lista è, secondo me, una cosa assurda, non riguarda il territorio. Ma infatti è qui, adesso la presento. Però, sindaco, le chiedo. Ci chiediamo che cosa serva, se questa persona si fosse fatto vivo, avesse proposto qualcosa. Adesso la faccio parlare con questa persona. Senta, ma Gramellini, Massimo Gramellini, sulla stampa, vi ha dedicato addirittura un commento in prima pagina qualche giorno fa. Dice, ma com'è? Cioè, non eravamo il paese dell'antipolitica, nauseato dalla casta, pronto a battersi per l'abolizione degli enti inutili, e invece siamo così, tutti a candidarsi, magari un quarto d'ora di gloria in campagna elettorale, pur di no, 33 candidati su 32 aventi diritto al voto, insomma, sindaco, è una cosa pazzesca. Comunque, ripeto, è una lista che non ha senso in una lei ce l'ha con questa lista, allora l'ho presa. Faustino Loda, non c'entra niente col territorio, effettivamente. Faustino Loda, buongiorno. Buongiorno. Lei è della lista, allora diciamo subito, lista del Grillo, così. Alternativa dei cittadini, siamo una federazione di 10 partiti. Non è che però non è quella di Beppe Grillo, diciamolo subito. Grillo c'entra, ma non come candidato. No, non facciamo il furbetto. Non è quella ufficiale di Beppe Grillo. Diciamo, no, ecco. Non vogliamo nulla di ufficiale nei confronti di Beppe Grillo. Ci interessano solo alcune sue idee. Ho alcune sue idee. Io le ho qua, tra l'altro, un po' pazzesche, devo dire. Però magari un paio le leggo. Faustino Loda, lei di dove è nato? Dove vive? A Pizzolo d'Oglio. Vivo a Rivolta d'Adda. Ci spieghi un po', perché sa, una radio nazionale, Rivolta d'Adda in provincia di? Cremona. Cremona. E che ci fa candidato sindaco in un paesino, il paesino più piccolo d'Italia, Morterone, Lecco? Tra l'altro lei è candidato sindaco in tre paesi, glielo dico. No, sindaco, sono candidato consigliere comunale. Ah, vabbè, insomma. E sono sindaco a Morterone. Le spiego il perché abbiamo senso. Abbiamo senso perché nel nostro programma politico nazionale c'è il progetto di riformare tutte le comunità montane e di combattere con i mezzi più opportuni lo spopolamento della montagna. E quindi ecco che perché noi quindi andiamo lì. A fare che? A ripopolare Morterone? No, noi andiamo lì perché in quelle istituzioni dobbiamo essere presenti per poter portare avanti determinati programmi. Alcuni di questi comuni li governiamo anche. Ma lei è candidato in tre comuni diversi, in queste lì adesso, al 6-7 giugno? Sono candidato sindaco a Morterone. Sì. E sono candidato consigliere comunale, come le dicevo appunto, in provincia di Cremona e in provincia di Lecco, a Dorio. Tutti i paesi, cioè lei Morterone, ma è vero che lei è andata a Morterone e per salire a Morterone ha fatto 15 chilometri a piedi? Bisogna tenersi in forma. Per tenersi in forma. Leggo alcuni punti del programma della lista a cui lei appartiene. Emancipazione totale dal petrolio, messa al bando dei combustibili fossili, soppressione degli stati teocratici dentro e fuori dall'Europa. Che fate? Andate con i lanzichenecchi a prendere il Vaticano, no? Sono cose che ormai hanno fatto il loro tempo. Sì. Cioè la Chiesa ha fatto il suo tempo, vabbè. No, non la Chiesa. La Chiesa, il Vaticano. La teocrazia. Messa al bando totale della pratica dell'usura, che è già illegale, insomma, mi risulta. Bisogna metterla. Purtroppo ci sono ancora delle sfere di legalità, purtroppo certo. Le banche e le società finanziarie hanno ancora ampi margini di manovra. Che c'entra le banche? Ah, vabbè. Addirittura abolizione dei presidenti delle repubbliche, chiusura dei mercati finanziari. Lei vuole chiudere la borsa? Certo, si deve tornare alle aziende. Sindaco questo Faustino Loda, sindaco Redaelli. Ha sentito un po' del programma? Sentito. No, è come io credo che sia nei confronti di Faustino Loda un po' vincere, insomma, partita non ancora iniziata. Un po' come se giocassero oggi Inter Pro Sesto. Stia attento che la Pro Sesto è la mia squadra del cuore, anche se quasi quasi rischia. Grazie, perché quasi quasi andiamo in C2 quest'anno. Che ne pensa di questo programma di Faustino Loda? Lei l'ha mai visto a Morterone quando si è preso? No, non l'ho mai visto. Ho saputo quando è salito che cercava il comune e poi ho organizzato la sua discesa attraverso la macchina del comune, perché insomma altrimenti non sarebbe più arrivato giù, ecco. Come dicevo prima, non capisco questo modo di fare. Se le sue idee le avesse proposte in un modo costruttivo si poteva fare un confronto, si poteva anche recepire. Però visto il programma, visto il modo, dico proprio è incomprensibile. Però sindaco, le chiedo, forse come dice Gramellini è un po' avere quel quarto d'ora di gloria o un paio di titoli sui giornali, insomma, per far notizia. Io credo che ci sia dietro qualcosa del genere. Però le chiedo anche, sindaco, per chiudere, insomma, che senso ha anche fare? So che neanche vi riunite spesso il Consiglio Comunale a Morterone, ma in un altro paese, no? Gli atti ufficiali sono tutti a Morterone, poi abbiamo un ufficio distaccato a Ballabio, perché purtroppo a Morterone non esistono servizi, non esiste una posta, non esiste niente, nessuno le montagne, e quindi per forza di cose dobbiamo avere una sede distaccata, ma è semplicemente per le normali attività dove ce n'è un'impiegata part-time, c'è la segretaria del comune. No, certo, era per chiudere, capendo insomma che anomalia è anche un comune di 36 abitanti che deve fare le elezioni con tutto quello che comporta anche. Però insomma è bello della democrazia anche questo. Io vi ringrazio, Gian Pietro Redaelli, sindaco di Morterone, Faustino Loda, candidato sindaco a Morterone, lista del Grillo, Alternativa dei Cittadini. C'è un terzo candidato sindaco, una signora che però non è con noi perché è insegnante e a scuola in questo momento. In bocca al lupo per la vostra campagna elettorale a Morterone, Lecco. Noi ci fermiamo qui. Alessandro Marco Tulli in redazione con Laura Marchesi, Carmelo Lauricella in regia. Cedo la linea al GR e poi a Giuliano Ferrara. Settimana prossima ci sarà Alessio Maurizi al mio posto. Io sarò in ferie e ci risentiremo poi 24 mattino, però continua a lunedì.